Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci. È il 7 aprile, per la mia generazione il 7 aprile erano i famosi arresti di Padova, quelli del, te lo ricordi, l'inchiesta 7 aprile, quella sull'autonomia, vabbè, sto parlando alla fine degli anni 70, comunque d'accordo, il 7 aprile, oggi santi, il santo patrono degli insegnanti, San Giovanni della Salle, e poi santi dai nomi come sempre un po' particolari, per esempio Calliope, Pelusio, Giorgio di Mitilene, va benissimo, Enrico di Walpole, ermanno Giuseppe di Colima, quindi insomma, questi altri santi hanno nomi più abbordabili, per così dire. San Pelusio, però veramente Pelusio non è male. Non cogliere il Pelusio nell'uovo, per così dire. Allora, nell'anniversario del giorno, oggi nasceva grandi come Francis Ford Coppola, grandissimi come Ezio Greggio, no, è una battuta chiaramente. E tra i morti Henry Ford, però ripeto, per me 7 aprile ricorderò sempre gli arresti del giudice, esattamente, il giudice Calogero, quello che smolto, fu quel primo a emettere un mandato di cattura per toni negri, quindi insomma per quelli della mia generazione che quando giravano le armi nei licei erano... Toni Negri, ricordiamolo, vitaliziato. È uno che ha il vitalizio anche pagato da tutti noi, che è tornato a essere poi un maestro per le generazioni, lo dico con una punta di ironia, per carità di Dio. Allora, cari ascoltatori, 800 24 00 24, Renzi ieri era a Napoli, è stato accolto. Sentiamo il rumore di fondo, no? Sì. È stato accolto così, tra l'altro, non solo così, però anche così. Anche così. E lui tra l'altro ha detto: se questa è l'accoglienza, torno tra un mese. Su questo devo dire, fa bene, che fai, arretri di fronte, cioè se ci sono contestazioni al politico, al presidente del Consiglio, e tu ti ripresenti, non è che no, ma anche perché c'è un piano da attivare, non è che poi, cioè voglio dire, si è presentato lì per la prima riunione della cabina di regia insieme agli enti locali. Il comune ha preferito gli scontri di piazza. Gli assessori erano due assessori alla cabina di regia, cioè ai luoghi istituzionali in cui ci si confronta. Non proprio negli scontri erano, diciamo, erano lì in piazza. Manifestazioni che poi sono degenerate in scontri. Sì. Però la scelta della giunta di Napoli è: noi incitiamo alla protesta di piazza, non andiamo nei luoghi deputati. Dici proprio così, insomma. Ma i toni sono quelli di un esproprio istituzionale, di un furto illegale, di violazione del codice amministrativo e penale. Il giudice amministrativo ha respinto l'istanza del comune di Napoli. Non so, se vogliamo credere che le istituzioni debbano incitare gli scontri di piazza, io credo che a un certo punto c'è un limite oltre il quale le istituzioni sono pezzi di istituzioni. Sai che il vice sindaco poi si è un po' pentito di parlare con Guido Ruotolo, ha detto: mi raccomando, questo non lo scrivo. Il vice sindaco ha detto: qui finisce male questa cosa. Ma cosa vogliono evocare? Toni da guerra civile? Non lo so, io sono molto colpito da questa cosa. Anche perché la storia di Bagnoli, non è che Napoli può dire espropriata, ripeto, loro hanno impugnato di fronte al giudice amministrativo il decreto dello sblocca Italia che consente al governo di intervenire, e il giudice amministrativo ha respinto la loro impugnativa. Ma il punto è che storicamente Napoli è dal 1972 che iniziano le varianti al piano regolatore per affrontare la deindustrializzazione di Bagnoli, e dal 72 al 2014, quando fallisce la Bagnoli SpA, no, loro hanno fatto un mucchio di cose, si sono magnati un mucchio di miliardi di lire, sì, certo, per papparseli con i dipendenti e non risolvere il problema. Allora, dopo 44 anni, cari napoletani, non è che un esproprio, se la consideriamo, secondo me, giustamente una priorità nazionale, e ci si mettono 280 milioni di euro per avviare un progetto, sentendo le istituzioni e sentendo la città, non è che si impone dall'alto. Ma sai infatti chi è, secondo me, oggi il più lucido sul giorno? È Edoardo Bennato, che ha dedicato due canzoni. Perché il padre lavorava all'Italside. E come no? Ha detto: sono cresciuto a pane e fumi di Italside, e nessuno ha mai fatto nulla, cioè di positivo, se non, tu dici, rubarsi soldi. Altri soldi. E tornano a casa, vengono qua, fanno i giretti, tornano a casa allora senza fare nulla. Il punto è che se c'è una prospettiva per ridare una identità e una fiducia ai napoletani, la canzone Bagnoli si vende di Edoardo Bennato è del 1989. Pensa, 27 anni fa già era quella la delusione. Allora proviamoci a cambiare marcia, altrimenti rassegniamoci, insultiamoci, andiamo in piazza, sfasciamo tutto. Benissimo, il paese declina, facciamo declinare. Quindi in questo tutto. Tu possiamo dire stai un pochino dalla parte del governo che dice facciamolo questa io cosa, dico mettiamo che chi i soldi. Ha da obiettare e obiezioni sul progetto, cose che si possono avere per sì. carità ed è legittimo. Vanno alla conferenza dei servizi e fanno la battaglia più dura del mondo se non gli piace l'estate. Ma non in piazza a contestare. Però dire non facciamo niente che è meglio, io al fare non facciamo niente che è meglio non riesco a capirlo. Non so. Vogliamo chiedere al nostro primo ospite, che è un deputato del Movimento 5 Stelle, è anche presidente della Commissione Vigilanza RAI, e come dire, su questo la RAI c'è qualcosa da dire, ma magari più avanti, ed è napoletano. Roberto Fico, buongiorno e bentrovato Fico. Buongiorno, buongiorno allora, a tutti. Allora, questi contestatori per Oscar Giannino, insomma, forse sbagliano dal punto di vista, no? Non è questo il modo di contestare. I contestatori li capisco. Che dice lei di questa visita di Renzi, Fico? Sì, riguardo la manifestazione, secondo me la cosa da dire è che non era organizzata esclusivamente contro la cabina di regia di Bagnoli. Renzi viene a Napoli, rappresenta un modo di governare il paese, rappresenta provvedimenti come il Jobs Act, lo Sblocco Italia, la riforma della scuola che a molti in questo paese non piacciono. Quindi la contestazione non era su Bagnoli, ma su sì. un modo di, modo di governare e i provvedimenti che il governo sta facendo negli ultimi due anni. Su Bagnoli dobbiamo dire che dal 1996, quando l'ultimo alto forno è stato chiuso nel Little Cedar, si era promessa la bonifica del mare, la bonifica del litorale, il levare la colmata a mare, e non è mai stato fatto niente. E in questa responsabilità non c'è dubbio che c'è tutto il Partito Democratico, prima con Bassolino, poi con la Iervolino, quando oggi il candidato sindaco del Partito Democratico Valente era assessore con la giunta Iervolino, di Bagnoli, la società di trasformazione, non si è arrivato a nessun risultato. Sì. Quindi da questo punto di vista il Partito Democratico è stato di però questo per il passato, ma però nel passato il punto è questo sul passato, che la nostra città e la nostra regione ha vissuto commissariamenti in forma costante e continuativa, un po' in tutti i settori: la sanità, le bonifiche ambientali, l'emergenza rifiuti, e noi abbiamo visto come funziona. In questi calderoni si può assumere senza nessun tipo di controllo, si danno appalti agli amici degli amici con uno scarsissimo controllo, vengono messi soldi pubblici, le faccio un esempio, 1 miliardo per le bonifiche in Campania, non è stata fatta una sola bonifica, i soldi più o meno sono stati spesi perché sono andati a queste società che alla fine hanno iniziato il cantiere e non l'hanno mai finito, è pieno di questi esempi in Campania. E allora è giusto avere la paura che un nuovo commissariamento, che poi nel principio non sono neanche d'accordo, possa non portare a niente ed esauteri la città. Però l'esaturazione della città rispetto anche ai poteri di un comune deriva anche dalla negligenza sia di tutti i partiti politici che si sono succeduti negli anni al governo della città, ma anche al governo della nazione, e sia in questo momento dei magistris, perché in 5 anni dei magistris su Bagnoli non è riuscito proprio a mettere mano, esatto. Non è riuscito a mettere mano rispetto alla società di trasformazione, non è riuscito a bloccare il degrado in cui versavano le nuove strutture come il parco dello sport, grandi investimenti pubblici e grande degrado e nessun tipo di controllo più, no, e così chiaro. Con la porta del parco. Però Fico, nel momento in cui, come diceva anche Giannino, c'è un governo che dice mettiamo quanto esattamente 280 milioni 280 milioni in teoria per la bonifica e per la rimozione della colmata a mare, e non è un progetto che uno dice andiamo a vederlo, semmai contestiamolo nei numeri, nelle cifre, nei dati, nelle questioni tecniche. C'è una conferenza di servizio apposta, esatto. No? Sì, allora io vi dico che la contestazione anche nel merito, in cabina di regia, rispetto a come si muove tutto quel mondo all'interno di un commissariamento, all'interno della cabina di regia, sarei andato a vederlo, senza dubbio, e avrei contestato punto punto la dinamica, perché è vero che in questi commissariamenti, nelle cabine di regia, in queste riunioni spesso si è fatto il male della nostra regione, il male della nostra città. No, se no sembra quindi una contestazione a prescindere. Sarei andato a difendere la città, la partecipazione della città, i suoni di Bagnoli in quella cabina di regia in questo momento. Su questo non c'è dubbio. Okay. Però politicamente è chiaro che avere sulle spalle un commissariamento da parte del governo, di un governo oltretutto che uno non condivide, che io non condivido in nessun modo, sì, e per questo abbiamo fatto una mozione di sfiducia, diventa dura il lavoro insieme. Allora, qui c'è anche l'altra questione, no? Che è piombata di colpo ieri e oggi con tutte le polemiche sui giornali, la questione della RAI e la questione della partecipazione del figlio di Rina, caro Fico. Ma lei ha proposto che cosa? Una mozione per valutare gli ospiti? Sì, no, non è una mozione per valutare gli ospiti. E ieri in ufficio di presidenza, discutendo con tutti gli altri membri della commissione, abbiamo valutato di poter fare un atto generale di indirizzo per normare in modo migliore la venuta di alcuni ospiti per tutelare il senso di servizio pubblico. Ma chi dovrebbe decidere se un ospite può venire? No, nessuno, lo deve decidere la direzione generale della RAI e il giornalista. La vigilanza su questo non può, secondo me, mettere bocca, però cercare di dire se ci sono degli inviti particolari come è stato quello di ieri sera, cerchiamo di farlo in un contesto giusto. Però bisognerebbe mettere, come dire, un decalogo di cose da rispettare, che ne so, chi ha una condanna per mafia non può essere intervistato, per dire, non avremmo mai avuto... No, chi intervistato sempre, cioè può essere sempre intervistato, non si mette in discussione questo. Che cosa si mette in discussione? Si mette in discussione, le faccio un esempio, torniamo ai Casa Monica, sì, quando ci fu la polemica quest'estate, secondo me nel salotto di Vespa, proprio nel salotto come Vespa, ospite, come ospiti all'interno dello stesso contenitore, dove magari mezz'ora prima c'era un attore, mezz'ora dopo un politico o un regista di un film o un cantante, non andava bene, perché in quel momento il contenitore diventava in se stesso il contenuto. Sì, certo, però lei stesso dice lo deve decidere poi il giornalista e la RAI, e infatti c'è stata una diatriba. Cioè, però io adesso spesso una lancia a favore di quello che dice Fico, perché sì, quello che come giornalisti abbiamo capito dalle convulse ore ieri di ricostruzione della cronaca di quello che avveniva nei palazzi della RAI, quando sì, è scoppiata la polemica, quello che si è capito è che non c'era una procedura sufficientemente oliata, per cui era evidente che l'amministratore delegato da una parte e il direttore diretta avevano il primo grandissime perplessità, il secondo così così, il direttore editoriale Verdelli ne aveva a propria volta e alla fine enormi, ha messo lui però l'ok, non c'era una procedura oliata per la quale si potesse dire ma chi decide cosa alla fine rispetto a questo. Vespa è andato avanti, ma i nuovi vertici dell'azienda erano, per così dire, dell'evidente imbarazzo di assumere una decisione. Sbaglio, Fico? Sì, ieri loro si sono riuniti e per me la decisione finale è stata quella di mandare in onda il servizio sull'intervista del figlio di Rina. Quindi la procedura interna, loro hanno tutto il potere e la forza e la condizione di causa per rivederla, ecco, se c'è qualcosa che non funziona e che non va. Oltretutto questo direttore generale ha i poteri di amministratore delegato e quindi ha poteri totalmente diversi e molto più ampi rispetto al passato, quindi in una riunione possono decidere Racconta nei giornali che sarebbe risentito dall'Ort nei confronti di Vespa. Ma lei come fruitore della TV, no? Come telespettatore, ecco, non come presidente della commissione di vigilanza, come la giudica questa presenza? Inopportuna, giusta? No, io ciò che dico è che contenuti particolari devono essere immessi nel giusto contenitore, perché se no avviene un processo... Una puntata dedicata... Insomma. Sì, però Vespa nel suo porta a porta fa tutto. Quindi costume, se parla di dieta cronaca, non può parlare anche... Politica, dieta, esatto, cioè la dieta mediterranea e poi magari il giorno dopo c'è il figlio di Rina. In questo modo c'è un'empatizzazione troppo ampia, senza alcun tipo di difesa, con il contenitore in se stesso. Allora tutto ciò che avviene nel contenitore è come se fosse legittimato. E ieri c'è da dire una cosa rispetto alle polemiche che ci furono con i Casa Monica, dove proprio io suggerì di non fare interviste di questo tipo all'interno dello studio, in uno studio dove appunto il giorno prima c'è un attore e il giorno dopo magari un mafioso come Rina, ma di farle almeno in un luogo molto più asettico, almeno questo ieri è stato... è stato fatto, perché secondo me un'intervista, per esempio, il figlio di Rina all'interno dello studio sarebbe stata incredibile, proprio non accettabile. In esterno, sì, nello studio. Per concludere, Fico, ma vedendo questa puntata, vedendo questa intervista, secondo lei qualcuno può essere legittimato a dire non pago il canone della RAI? Qualcuno può essere legittimato, ognuno poi su questo può prendere la propria decisione. Ma da questo punto di vista è come si raccontano le cose. Per esempio, a me ci sono delle non mi è piaciuto molto che ci fosse una sorta di confronto tra il figlio di Rina e il figlio della persona che scortava Falcone. Insomma, la televisione tocca delle corde a volte in un modo che secondo me deve essere, cioè la televisione deve essere molto matura per poter fare operazioni di questo genere. Io penso che la televisione e molte trasmissioni non siano mature per affrontare in un modo così pregno e forte certi argomenti. Tra queste porta a porta, immagino. Insomma, io sono molto d'accordo con quello che sta dicendo Fico. Cioè, qui c'è un servizio pubblico. Per quello che mi riguarda, visto che mi chiedono di pagare il canone in bolletta elettrica, io ieri ho spento la luce come reazione, per così dire. Perché? Perché non si può dire faccio una puntata col figlio di Rina, poi domani ne faccio un'altra con gli eroi dell'antimafia. Perché il figlio di Rina che mi viene a dire io della mafia non parlo, per me non esiste, ne parlano i magistrati, non ne voglio parlare, io dico solo che ho ricevuto amore. Per me, se il servizio pubblico crede che questa è libertà di informazione, benissimo, benissimo, io non voglio pagare, voglio essere in condizione di non pagare il canone, perché secondo me non è servizio pubblico e io difendo la piena libertà del giornalista. Sono loro che dicono che sono un giornalismo migliore perché il servizio pubblico io lo devo pagare. Questo lo può dire Oscar Giannino, allora, non lo potrà dire Fico, immagino. Ma non mi voglio sottrarre alla legge, dico però che a quel punto, se sei servizio pubblico, non mi dici faccio stasera la televisione col figlio di Rina e domani col figlio di Borsellino. No, perché devi offrirmi un servizio in cui, se quello dice non parlo della mafia, dici no, tu sei figlio del grande mafioso. Infatti, non puoi dire non parlo della mafia. Il problema è, come scrive oggi Marco Travaglio, che non è che da dare la patente di inintervistabile a nessuno, ma il problema poi è come si fanno le interviste. È quello che sto cercando di dire. Non solo come fanno le interviste, in più è proprio il contenitore all'interno del cui vanno 100 interviste. Perché se la mandiamo l'intervista a Domenica Inn dopo che hanno ballato delle persone al mafioso, diventa tutto quanto folcloristico e diventa la mafia folcloristica. Molto d'accordo. Oggi Maggioni e Campodall'Orto, presidente della RAI e del consigliere del direttore generale, saranno, se non sbaglio, in antimafia. E la settimana prossima da noi ci sarà il direttore di RAI 1 che convochiamo per l'audizione. Ah, va bene, ci ha dato anche queste notizie. Intanto la ringraziamo. Intanto Roberto grazie. Fico. Grazie Roberto Fico, presidente della Commissione Vigilanza RAI del Movimento 5 Stelle. Oh, noi abbiamo invece tra un attimo, dopo la pubblicità, il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti. Vice ministro. Vice ministro. Tanto non abbiamo altro le deleghe, quindi più o meno la stessa cosa, però siamo vice ministro. Tu giri il coltello nella piaga, io ho sbagliato Enrico Zanetti, e lo chiamiamo perché ieri ha intervistato a un certo punto sugli 80 euro ai pensionati e ha detto la sua. Io devo dire, apprezzo molto come lui l'ha detto. Vediamo se ce lo ridice tra poco. Cioè ha detto che attenzione al populismo. Ha detto, vorrei che nel governo si cedesse al populismo. Il populismo di governo no grazie. Tra un attimo. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. Eccoci qua, 8:42 minuti, caro Oscar. Eccoci, tornato in diretta. Abbiamo il vice ministro Enrico Zanetti, vice ministro, buongiorno. Stavolta non mi sono sbagliato, vice ministro dell'economia e presidente di Scelta Civica, vogliamo anche ricordarlo. Allora, queste pensioni... glielo chiediamo diretto, ma è populismo questa storia degli 80 euro? No, come ho detto ieri, è ovvio che questo governo, come del resto anche i precedenti, ha come obiettivo anche quello di migliorare naturalmente il livello delle pensioni minime, però una cosa che deve essere sempre chiara, soprattutto quando si sta al governo, è che bisogna anche declinare in modo chiaro quello che è l'ordine delle priorità di interventi, che non possono purtroppo essere infiniti e contemporanei, perché le risorse sono delle risorse finite. E nell'ordine di priorità che noi ci siamo dati con grande chiarezza ci sono le riduzioni della pressione fiscale su chi lavora e produce, il blocco delle clausole di salvaguardia . E poi sul fronte pensionistico è già da tempo in corso un dibattito sulla flessibilità. Inserire un nuovo elemento che poi non è un inserimento, perché è pacifico che fin dall'inizio è una delle cose che volentieri si farebbero, se bisogna inserirlo appunto, però dicendo con chiarezza qual è l'ordine delle priorità, altrimenti si rischia oggettivamente di fare appunto una sorta di populismo di governo. Devo dire che già nella giornata di ieri, ad esempio, un altro componente di governo come sottosegretario Nannicini ha detto con chiarezza che questo intervento per l'appunto non è una priorità, non perché non sia importante, ma perché ci sono prima quegli altri punti dell'agenda di governo chiaramente declinati. Cioè, fondo alla lista, o meglio, non è il primo punto secondo lei da affrontare? È una questione importantissima, certamente, però siamo già impegnati sul fronte di una riduzione massiccia di imposte sul lavoro e sulla produzione. Abbiamo da tenere ferme, infatti non scatteranno le clausole di salvaguardia, perché altrimenti è chiaro che se l'IVA aumentasse tutto quello che stiamo facendo diventa abbastanza una partita di giro, e non aumenterà l'IVA. A due partite già importanti si somma poi sul fronte pensionistico un dibattito che si trascina da oltre un anno sulla flessibilità, al quale sarebbe ragionevole a questo punto cominciare a dare qualche risposta, sempre naturalmente ponendo a monte gli interventi di riduzione del fisco su lavoro e impresa. Ecco che continuare a introdurre nuovi fronti lo si può fare, per carità, ma si deve farlo dicendo con chiarezza qual è l'ordine di priorità. Sì. Io questo ho voluto sottolineare. Certo. E devo dire che già nella giornata di ieri, appunto, anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Nannicini ha sostanzialmente risposto al mio appello dicendo che questa non è una priorità. Quindi allora, direi che siamo tutti perfettamente in linea. Due questioncine, un po' collegate, di cui la seconda però è quella che ha maggiore eco, ma io comincio dalla prima. Non è anche caso, Vice Ministro, di fare un po' una riflessione? Cioè, le botte, una botta e via, insomma, i provvedimenti one shot, come si dice in termini tecnici, quelli che sono solo per un anno e finanziati a tempo. Tutta la categoria degli 80 euro è nata sotto questa cosa. Non c'è il caso, ormai ci sono gli elementi per fare un bilancio dopo un anno e mezzo, due anni, cioè sono cari e gli effetti si stentano a vedere. Questo è il mio giudizio, ma mi interessava sapere il suo rispetto invece a provvedimenti strutturali, cioè vi abbasso le imposte sul reddito, vi riorganizzo le aliquote sul reddito delle persone fisiche o vi abbatto le imposte sul reddito delle persone giuridiche, però stabilmente di tot, ma resterà così per anni. Io preferisco la seconda, voglio sapere la sua cosa. Poi la seconda cosa. Prego. Ma poi, siccome lei è intervenuto anche subito sulla vicenda di Panama Papers, perché lei ha detto adesso andremo a beccare questi 900, quanti sono, le chiedo quei documenti che rilevanza hanno per l'amministrazione tributaria, e a quel punto lei dice passeranno tempi tribolati se non siano messi in regola con la volontà di disclosure. Possiamo spiegare che cosa vuol dire? Però parliamo innanzitutto dei bonus. Allora, guardi, sul fatto che i provvedimenti devono essere strutturali e non una botta e via, siamo assolutamente d'accordo, ma devo dire infatti che il famoso bonus 80 euro da cui tutto è partito per i 10 milioni di lavoratori dipendenti è assolutamente diventato strutturale. Adesso abbiamo fatto una misura analoga per ora per un anno per le forze dell'ordine, ma è un altro degli impegni che abbiamo preso, e quindi rinnovo sempre la logica dell'ordine di priorità e della consapevolezza che bisogna innanzitutto andare avanti con gli impegni già presi. Anche per le forze dell'ordine abbiamo detto che naturalmente, come per gli 80 euro, diventerà una cosa strutturale, perché altrimenti effettivamente è una misura inutile. Quindi, cioè, la gente non ci crede, dice siccome poi non resterà, tanto risparmio piuttosto consumare. È successo anche col primo bonus degli 80 euro, fino a che non è stato reso strutturale, comprensibilmente la gente non si è fidata a spenderlo, ma noi avevamo detto che l'avremmo fatto e l'abbiamo fatto. Stessa cosa abbiamo detto che l'avremmo fatto, che lo faremo per le forze dell'ordine, e lo faremo, ma proprio perché gli impegni che stiamo prendendo sono impegni importanti e impegni consistenti, e proprio perché la credibilità è far seguire all'annuncio la realizzazione, bisogna naturalmente essere misurati piuttosto che dichiarare un conto circuito. Non è che si può fare tutto in deficit, perché l'Europa che non credo che autorizzerà questo. Però direi che in deficit le uniche cose che si possono fare, poi c'è chi è più propenso, chi meno, ma le uniche cose che si possono fare sono gli interventi pro crescita, quindi riduzione di pressione fiscale su chi lavora e produce, gli interventi di redistribuzione della ricchezza, quelli non si possono finanziare, va prima creata, esatto, prima di poterla redistribuire. Quelli farli in deficit significa semplicemente creare i presupposti per futuri sacrifici ancora peggiori. Quelli sono. Veniamo ai Panama Papers. Panama Papers. Ha visto che ci sono dei nomi, li ha già letti i giornali oggi. Verdone. Nuovi nomi tele. Carlo Verdone, Barbara D'Urso. Vabbè, adesso non si vuole fare la gogna, per carità. Allora, però sono i nuovi nomi. Però che rilievo hanno per l'amministrazione tributaria queste documentazioni? Per l'amministrazione finanziaria saranno informazioni preziose, stanno già lavorando per acquisirle. Sul fatto che potranno utilizzarle ormai è pacifico, perché la giurisprudenza ha risolto un dubbio in proposito. Si è accumulata dai casi Falciani in poi. Assolutamente, ed è giusto che quindi si attivino per averli. Poi è chiaro che non costituiscono di per se stesse un automatismo. Fonte di prova. E allora perché lei ha detto passeranno momenti tribolati? No, però sono indizi sui quali attivare. È doveroso acquisirli, è doveroso attivare sulla base di questi elementi delle indagini approfondite. Perché? Perché se è pacifico che non tutti sono automaticamente evasori, credo sia abbastanza risibile negare che una percentuale non marginale di loro probabilmente lo è. Quindi sarebbe assolutamente sbagliato trascurare indagini approfondite che comunque devono essere fatte, perché la presenza semplicemente nominativa non è di per sé sufficiente a far scattare alcun tipo di conseguenza, ma delle indagini, accidenti. Perché ricordiamo che a quel punto, siccome loro non avevano messo in moto la Voluntary, se emerge adesso non possono fare la messa in regola. Certo, tra l'altro anche questa è una cosa da verificare, è più che possibile che alcuni tra queste centinaia magari si siano messi in regola con la Voluntary, quindi pagando non un condono ma pagando tutte le imposte che dovevano pagare e anche un pezzo di sanzione. Chi ha fatto questo ovviamente è già emerso ed è a posto. Chi invece fosse stato in Panama non per ragioni lecite, ma per nascondere patrimoni, e non abbia mai fatto il monitoraggio fiscale, cioè la dichiarazione al fisco di patrimoni detenuti all'estero, e non ha nemmeno fatto la Voluntary, è chiaro che partono gli accertamenti e le sanzioni sono molto pesanti. Ma da membro, ed è bene che sia così. Da membro del governo, lei sconsiglierebbe agli italiani, cioè dire attenzione, guardate che non ci sono più tanti paesi offshore, non è che ci sono tanti rifugi fiscali ormai, oppure ce ne sono ancora? Beh no, ce ne sono ovviamente ancora, ce ne sono meno di prima e soprattutto sono molto più scomodi, perché noi abbiamo cominciato anzitutto dal superare il segreto bancario nei paradisi fiscali a noi più vicini, inseriti in contesti molto più tranquilli, perché sapete, andare a dare dei soldi magari a un fiduciario svizzero in Svizzera ti dà determinate garanzie. Andare a spossessarti fiduciariamente dei tuoi beni in qualche posto sperduto in capo al mondo succedono e poi li nascondono talmente bene che non li riprendi più. E tu non puoi nemmeno denunciare, perché naturalmente ti autodenuncerei. Quindi è chiaro che già così facendo stiamo rendendo sempre più difficile, ed è oggettivo che sta succedendo questo, usare i paradisi fiscali. Nascondere, poi dire che è impossibile oggi farlo, no. Non lo sarà mai impossibile. Esatto, il nostro compito è restringere il cerchio. Io ho una curiosità, insomma, lei per carità non vogliamo addentrarci nel ginepraio delle intercettazioni, ma da alcune intercettazioni che emergono sui giornali, le avrà viste anche oggi, l'ex ministro Guidi insomma usava parole nei confronti di altri membri del governo, compreso Padoan, parlando di cricche, quartierini, bande, se non termini anche figli di, pezzi di, eccetera. Voglio dire, lei fa parte di questo governo, per carità, se andiamo a guardare dentro i telefoni c'è di tutto, ma che effetto le fa vedere che un ministro, un ex ministro di questo governo definiva colleghi così? Guardi, sa che effetto mi fa? Mi fa l'effetto che per l'ennesima volta tutto ciò che non è penalmente in un'intercettazione, ma appartiene a conversazioni, in questo caso di apprezzamento più o meno alto sul non dovrebbe delle finire. Persone, non dovrebbe finire. La mia non è una critica sui giornali, cioè non dovrebbe uscire. Però vi dico la verità, mi piacerebbe che una volta in questo paese come capita ed è capitato ed è giusto che sia capitato ed è anzi positivo, è un passo avanti, c'è un ministro che si è dimesso in 448, piacerebbe vedere una volta magari un PM che dice: guardate, scusate, il mio ufficio è una gruviera, non sono capace a gestirlo, esce di tutto, sono un incapace, mi dimetto. Perché non dico neanche che è colpa del PM, magari gliela fanno i suoi collaboratori, gliela fa magari gli avvocati, magari anche gli avvocati. Sì, però chi è che ha la responsabilità di quella documentazione? Perché queste persone che giustamente svolgono come ruolo l'accertamento delle responsabilità di tutti non si pongono mai il problema anche di questioni di opportunità in capo a loro? Io spero che questo non venga vissuto come un clamoroso attacco alla magistratura, perché non voglio attaccare la magistratura, però è un tema, non è possibile che le procure della Repubblica siano delle gruviere rispetto alle quali non c'è nessun responsabile, perché invece dei responsabili d'ufficio ci sono. E come tutti in questo paese a volte sono chiamati a rispondere per la cosiddetta responsabilità oggettiva del loro ruolo, non vedo perché ci devono essere delle franchigie rispetto a un ragionamento di questo. No, ma è chiaro. Intanto noi la ringraziamo, vice ministro dell'economia Enrico Zanetti, anche perché Oscar, una di queste intercettazioni secondo me già finirà nella storia. Chi dice che vorranno fare nei titoli di telenovela, che è quella della sguattera guatemalteca, la Guidi che dice me colpisce al compagno, di più che lui che lei dica che Padoan è l'espressione della cricca, sì, dei petrolieri. Poi ci segnalo che il giornale renzista, cioè il Foglio, addirittura c'ha due titoli oggi: c'è una piena che può travolgere Renzi, le direzioni ammaestrate, che è la maniera con cui loro descrivono giustamente i capi delle grandi testate italiane, le direzioni ammaestrate non bastano, c'è un progetto che rischia di impantanarsi, giudici, corporazioni, insinuazioni non si sconfiggono, quindi loro vogliono la controffensiva. Gombolotto. E l'attacco del circo mediatico giudiziario alla discrezionalità delle scelte politiche. Quindi, capito, i renziani hanno paura, perché questo, a me dispiace dirlo, i miei amici liberali un po' dirazzati del Foglio oramai, che qualunque cosa dica Renzi per loro è il santo Vangelo, hanno paura. Ecco, questo è il punto. Questo è il punto. Comunque, caro Oscar, ci dobbiamo fermare qui. Certo che la sguattera del Guatemala lo sapevo, un titolo, lo leggeremo nei prossimi giorni. Io non ho capito, se per te è quello che ti colpisce è che la ex ministra antropologicamente disprezzi così tanto le sguattere del Guatemala. Spero solo che il Guatemala non ci dichiari guerra, ecco, tutto qua. Questo forse è possibile. Va bene. Va bene, dai, si fa per